Il loro disagio e l'impossibilità di lavarsi dignitosamente. Si prendono a secchiate a vicenda, prendendo l'acqua dal lavabo della doccia che è perlomeno tiepida. Potrebbero chiamarsi problematiche sorvolabili, invece queste condizioni imposte rendono la nostra permanenza e sopravvivenza insostenibile a un minimo tenore dignitoso. Ho deciso di scrivere questa parte di lettera di sfogo perché vedo crollare la stabilità delle compagne sotto i miei occhi e mi sto quasi sentendo impotente a poter solo tendergli la mano. Ci sono detenute che andrebbero spostate in centri che possono aiutarle e non essere imbottite di terapie per non disturbare la quiete delle lavoranti agenti assistenti, con il continuo urlo straziante per il loro malessere psicologico, con invalidità al 100% neurologica. Sono già state in diverse strutture OPG, ma ora giacciono qui nei nuovi giunti. Io non mi permetto di chiudere la bocca a nessuno, così per non sentire questi urli assordanti ho praticamente un trapianto di cuffie alle orecchie. Ho preso realmente coscienza che bisogna far uscire al di fuori da queste mura la realtà vera, cruda delle carceri italiane, perché lottando sole facciamo solo numero. Così da questa sera a un mese ognuna di noi farà da passaparola per far girare la voce nelle carceri italiane. Il 4 dicembre alle ore 16 faremo una battitura. Nel giro di un mese credo che il passaparola sarà arrivato in tutte le carceri e chi ha la possibilità di mandarci giornalisti al di fuori di queste strutture da degrado aiuterà a far uscire oltre queste infinite sbarre il nostro grido d'aiuto. Se una persona lotta da sola, resta solo un sogno. Quando si lotta assieme, la realtà cambia. Qualcuno dovrà pure darci ascolto. Siamo ancora prive di un contatto col mondo esterno, prive di TV che potrebbe aiutare a distogliere la mente dai nostri pensieri. La nostra potrebbe essere un po' di zucchero per i nostri cuori, ma anche lì abbiamo il lusso che ci venga consegnato dalla posta. Dal martedì al venerdì. Forse non avendo contatti col mondo esterno non siamo a conoscenza che le poste italiane ora lavorano solo quei giorni, ma non credo che sia così. Dopo un mese dal mio trasferimento a questo penitenziario, nuova disposizione: tutta la posta deve essere registrata al computer quando ne hanno tempo, altrimenti come oggi, seppur lunedì, la posta vista da altre detenute non ci è stata consegnata. In prima sezione hanno fatto la battitura: noi nuovi giunti all'aria ci mettiamo sul piede di guerra, minacciamo di non risalire dall'aria. Così, per azzittirci, la nostra dignitosa ispettrice ci viene a dire che stanno registrando la posta. A chiacchiere, niente posta. Io personalmente una raccomandata l'ho firmata dopo 9 giorni dal suo arrivo. Non veniamo rifornite di niente, generi di prima necessità per l'igiene persona o quant'altro. Solo al nostro arrivo un rotolo di carta igienica, 2 piatti, 2 posate di plastica, uno spazzolino e un dentifricio con saponetta. Poi, dopo aver dormito senza lenzuola, coperte e cuscino, se sei fortunato, entro un paio di giorni dal tuo arrivo puoi ottenerle e poi niente più. E mi ripeto, chi non ha un piccolo aiuto dall'esterno economico è privo di tutto, non viene rifornito neppure dalla carta igienica. Ma per fortuna c'è la domenica di mezzo, ci viene dato gentilmente in regalo Famiglia Cristiana e molti giornali, e molti hanno trovato rimedi a scopo carta. Scrivo terra terra sdrammatizzando, ma siamo nel tunnel degli orrori. Prendendo atto di ciò che è accaduto il 31 ottobre, ora do il libero sfogo. Abbiamo sollecitato più volte gli assistenti di sezione di tenere sotto osservazione una nostra compagna, da giorni in uno stato confusionale, preoccupate per questa visibile instabilità. Abbiamo solo richiesto che venisse applicato il loro ruolo, controllarci. Bene, se questo fosse stato con i tempi giusti, oggi non ci si troverebbe in questa condizione. Bene, siamo scesi all'aria alle 15 e al nostro ritorno, dopo più di un'ora che eravamo rientrate, notiamo un allarmante via vai di assistenti nella cella di questa nostra compagna. L'hanno trovata priva di sensi, con entrambe le braccia tagliate da ferite importanti, tanto da procurarsi la sutura di 19 punti al braccio sinistro e 24 a quello destro. Ovviamente, mentre lei era in infermeria, viene fatto il cambio cella per essere poi piantonata. Ovviamente. Tutto ciò poteva essere evitato ascoltando le sue ragioni. Non volevano consegnarle la spesa della sua concellina uscita liberamente, che aveva fatto tanto di domandina per lasciare la sua spesa a lei. Domandina vista da vari assistenti e poi credo cestinata. Questa è stata la goccia che ha introdotto quel filo sottile della sua stabilità già offuscata. Anche qui sarebbe bastato ascoltare e controllare prima che succedesse l'accaduto. Malgrado piantonata, la stessa notte per la seconda volta ci è andata troppo vicina. Si stava soffocando con la sua maglia e per ritardare l'accesso alla sua cella di piantonamento ha tirato sulla branda facendola incastrare nelle sbarre del blindo. Allora tiriamo fuori la realtà, la verità. Non credo che bisogna aspettare che una sia sottoterra. Questo va ben oltre. Ieri è andata bene, se così si può dire. Facciamo qualcosa, aiutateci, aiutiamo queste donne, figlie, madri. Per finire in bellezza, la stessa notte una compagna si sente male, soffre di gastrite nervosa. Mi dirai che non è una patologia così allarmante. Sì, se solo non soffrisse di problemi cardiocircolatori. Ha già avuto un arresto cardiaco provocato da questi attacchi. Continuano a farle flebo e punture di cotramalla per alleviare il dolore. Ma in sostanza, con i problemi che ha, aggrava solo le sue condizioni. Portandola tra le mie braccia di peso sino in infermeria, è passata più di un'ora e mezza per far intervenire la guardia medica. Bene, io sono allibita da tutto ciò, ma non smetterò di combattere per me e per le mie compagne. Il nostro grido di dolore è assordante, ma non ci sente nessuno. La guardia sigilli cancellieri si sta muovendo per noi, per la popolazione carceraria, ma deve aiutare noi tutte detenute dal degrado. Un grido d'aiuto e un affettuoso saluto, le detenute della seconda sezione, nuovi giunti. Seguono le firme di 22 detenute. Bene, noi abbiamo finito con questa lettera, perché nessuna e nessuno deve essere lasciata sola. La coordinamenta saluta affettuosamente tutte le compagne e i compagni detenuti e tutte le detenute e tutti i detenuti. Vi ricordiamo i nostri indirizzi, vi ricordiamo la nostra mail. Per leggere i documenti che avete sentito stasera potete andare sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org. Per scriverci potete scrivere a coordinamenta@autistiche.org. sì, mi sono confusa. Comunque, a mercoledì prossimo. È che questa lettera mi ha veramente sconvolta. Grazie, ci sentiamo. Ciao a tutte e a tutti. Got side with my hands I could be beheaded. They must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch would just peel out the watch would. We'll be right back. your seatbelts. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione in leggero ritardo anche perché stiamo sistemando le problematiche tecniche, perché stasera avremo un'intervista all'interno della trasmissione. Ma al momento abbiamo anche una chiamata in diretta qui da Radio Onda Rossa. Pronto? Mi senti? Pronto? Ci siamo, io ci sento. Ecco qua, vai, ti sento. Voi mi sentite? Tutto a posto. Allora, niente, sì, in diretta, perché al Forte Prenestino, come avrete sentito già annunciato dalla radio, nei spottini, eccetera, eccetera, questa sera presentazione ufficiale, uscita così, ufficiale della Scarceranda del 2014, con annesso il consueto quaderno, il quaderno numero 09 per quest'anno. Quindi nel frattempo, ecco, passano altri direttori della radio. Allora presenta un bel pezzo dei redattori di Radio Onda Rossa. Bene, bene. Appunto, Scarceranda poi è l'espressione in qualche misura di una redazione, diciamo così, tra virgolette, allargata di Radio Onda Rossa. È l'autogestione, la cosa, diciamo, l'autogestione più famosa, l'autoproduzione più famosa di Radio Onda Rossa, più antica, più vecchia, che insomma ormai da tanti anni ci preoccupiamo di realizzare. scarcerando appunto che è l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, e che diciamo al prezzo di 12 euro che è il prezzo di copertina dell'agenda, appunto contempla l'agenda e il quaderno allegato. Tra l'altro quest'anno tutti e due abbastanza corposi, più spessi, la carta è più ha una grammatura più grossa, abbiamo notato. E appunto lì dicevo, il quaderno annesso, ma con 12 euro però non che sono appunto il prezzo della scarceranda. In realtà noi facciamo anche un'altra cosa, cioè a tutti i detenuti e le detenute che richiedono scarceranda gli viene recapitata in carcere, ecco. Che questa è la cosa forse più importante, secondo me. Perché tra l'altro i detenuti e le detenute sono fra coloro che la scarceranda contribuiscono a realizzare con le loro opere, con i loro scritti, con i loro disegni, con il loro contributo, insieme a tante altre compagne appunto che della battaglia anticarceraria hanno fatto un punto, diciamo, importante della propria battaglia politica più generale. Allora, dette queste cose importanti, dicevo, mezza redazione della radio, forse anche un po' di più, presente questa sera al Forte Prenestino, perché forse non l'ho detto, è al Forte Prenestino. No, l'ha detto. Ah, perfetto. Sì. Va bene, presso la Taverna del Forte. Come si svolge la serata, ordunque? Dunque, no, volevo dire, solo prima di dirti come si svolge la serata, volevo semplicemente dire che c'è però manca qualcuno che è il nostro Fagiolino, e innanzitutto mi hanno detto proprio dall'interno di dire e di ricordare che la scarceranda di quest'anno la dedichiamo a Fagiolino. Certo. Con lui mi hanno pure suggerito di dire a tutti i blocchi neri, boh, vabbè, non lo so, insomma, comunque questa cosa qui poi la vedrete, diciamo, capirete quando vedrete la scarceranda di quest'anno, che diciamo ha un colore scuro. Però sì, questa sì. Cosa non si può dire, perché poi c'è stato qualcun altro che ci gioca su questa cosa facendo dei concorsini radiofonici, però vabbè, lasciamo cadere la cosa. La serata si mangia bene, innanzitutto. Io ho mangiato una splendida... Tu naturalmente fai schifo, sappiamo, quindi... Sì, non sono attendibile, però ho mangiato una splendida pasta con i funghi, le noci e altre verdure, ci stanno le lenticchie, ci sta un magnifico combo di verdure. Mazza, combo, ti sei fatto anche un po' raffinato, vero? Un combo. Ho mangiato un combo. Ci stanno tante altre cose per vegani, per vegetariani e per... no, per carnivori no, penso. Sì, forse anche per... No, per carnivori non mi pare. Forse c'è il tonno in mezzo da qualche parte, però insomma ce n'è per tutti. C'è la musica, che comunque ci sta un DJ set dove ci stanno altre vecchie conoscenze di Radio Onda Rossa che comunque stanno dietro appunto il mixer a molestare la serata, e quindi insomma un po' tutto qua. La presentazione c'è ancora sì. Tutto, quindi sì. E c'è anche la presentazione vera e propria, presumo, no? Qualcosa del genere. Non so se più tardi sì verrà fatto, presumo, un piccolo siparietto in cui appunto daremo i connotati. Comunque la scarceranda la trovate anche in radio, la troverete da oggi in poi in tutti gli infoshop di movimento, nei posti dove la radio allestirà i banchetti. Insomma, è uscita, siamo tutti contenti e contente, e appunto vi invitiamo a contribuire appunto a questo progetto acquistando la scarceranda, regalandola e appunto, come dicevo prima, anche a diffonderla soprattutto fra la popolazione che è privata della propria libertà personale. Perfetto, carissimo professor Fefo, noi forse ci si vede dopo, credo, no? Ci sentiamo fra poco, ci vediamo e sentiamo fra poco con tutti e tutte gli ascoltatori. Ti ringrazio della chiamata, dell'intervento, e a presto, a dopo. Bene, buona trasmissione, ciao ciao. Ciao ciao. Dicevo dunque, questa puntata particolare di prove tecniche di trasmissione, abbiamo qui Francesco Romana Guarnaschelli. Presentatevi, anzi, perché avete microfoni e cuffie, e avvicinatevi al microfono, presentatevi per quello che siete. non siate timidi, quindi. Non si sente nulla, però, sai? No, adesso no. Beh, po'. Vai. Ciao. Okay. Adesso sì. Ok. Vado? No, perché ho sentito di essere bloccato. No, vai tranquillo. Ah, ok, si sente tutto. Vai perfetto. Ciao, niente, io sono Francesca Romana Guarnaschelli, sono una fotografa. E dici perché siamo qui brevemente, poi mettiamo un po' di musica e poi cominciamo a parlare effettivamente del motivo vero e proprio. Insomma. Siamo qui per parlare del mio progetto fotografico, che adesso è in esposizione a Roma, e il progetto si chiama Promessa Terra. È un progetto che si ispira alla filmografia di fantascienza, dove io attraversando... Calma, quello sto dicendo. Ok, ok. E invece il personaggio alla tua destra... Il personaggio alla sua destra, io sono Fabrizio, in arte la mia band si chiama Cobol Pongide, dico si chiama, che come dire, non si identifica solo con me, perché è una band di due elementi, uno umano che sono io, infatti sono venuto in radio perché, come dire, ho questa capacità di adattarmi e di dialogare con gli esseri umani, perché l'altro è un robot, quindi non... come dire, ha un po' più di difficoltà, insomma, io comunque rappresento entrambi, spero di rappresentare in maniera degna anche il mondo della robotica in questo momento e quindi niente, volevo dire, partecipo praticamente ad un evento di Francesca, do il mio apporto a questa cosa molto bella e vai, poi tanto ho detto ne parliamo dopo, perfetto. Bene, noi invece adesso, giusto per entrare un po' nel clima della trasmissione, ci andiamo ad ascoltare. Iniziamo con un artista italo-americano dal nome Cervello Elettronico. Si chiama David Christian e questo è il suo secondo lavoro, stampato attraverso la Hans Productions, etichetta di Dortmund, fondata da Udo Wiesemann, da queste parti più noto come Winterkalt. L'album in questione è uscito qualche mese fa, si chiama Anima Meccanica, e ci andiamo ad ascoltare le prime due tracce dal nome Last Words e Background. abbiamo cominciato a conoscere questo nuovo lavoro di Cervello Elettronico di David Christian, si chiama Anima Meccanica. Anima Meccanica, che si apriva con Last Words e Background. L'ispirazione credo si possa identificare soprattutto con Orphex e quindi la tribalità conseguente di quel progetto, ricordo, proveniente dal Canada. Come andremo anche ad ascoltare dopo e a sentire dai nostri ospiti, ci sarà un discorso di unione tra musica e fotografia, che è stato accennato da qui dall'ospite Cobol Pongaid, come la pronuncia? Ti ho alzato il microfono. Pongide? Sì, sì, pongide perché perché in realtà i pongidi sono l'ultima biforcazione. Da una parte, no, nell'evoluzione umana, da una parte vanno gli uomini, dall'altra vanno gli ominidi, come le scimmie superiori, che lo scimpanzé, tipo l'orangutango, che sono appunto i pongidi. Berlusconi, in che categoria? No, è la terza biforcazione. Ah, la terza biforcazione. La terza, un caso a sé, come al solito. Sì, assolutamente. L'anello mancante, oppure il classico anello mancante. E quindi il pezzo che ci stiamo ascoltando ora appartiene a un progetto tedesco che in qualche modo ha qualcosa a che fare con il nostro ospite. Si chiamano Toys R Noise, Ritournelle du Port Brumeux, dove la musica e il rumorismo conseguente, e lo so perché l'ho visti anche dal vivo, viene creato da strumenti autocostruiti e cibernetica applicata a vari oggetti, e appunto in qualche modo si può collegare alla chiacchieratina che ci faremo tra qualche minuto. Bene, dunque 21:41, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Queste prove tecniche di trasmissione, iniziamo questa chiacchieratina parlando parliamo di Progetto Terra con Francesca Romana Guanaschelli e Cobol Pongide. È la prima volta che ammetto che sento questo termine, perché ci ho un pochettino per metabolizzarlo. Bene, iniziamo questa chiacchierata su questo esempio di multimedialità, appunto, di questa mostra fotografica con annesso, diciamo, spazio musicale. Dici, Francesca, un po', presentaci questo Progetto Terra. O meglio, io ho letto un qualcosa che riguarda, se mi permetti, la tematica del collasso delle civiltà, sia quella occidentale, ma evidentemente anche altre. Negli studi c'è anche presente Eugenio, con il quale parlavamo lo scorso venerdì, che anche in Giappone, per esempio, se la passano male in tal senso, ed è una civiltà un po' ibrida tra Oriente e Occidente, tenendo conto poi delle dinamiche legate a Fukushima. Prego. Sì, beh, io ipotizzo questa invasione aliena perché ci troviamo in un contemporaneo dove tutto sta cadendo, sta appunto andando verso un collasso. E quindi mi è piaciuto giocare su questa in chiave fantascientifica, quindi ipotizzando un futuro possibile attraverso l'incontro con l'altro, visto che qua tra di noi non c'è poca possibilità di comunicazione. Infatti nel mio progetto le figure umane sono assolutamente assenti. Noi vediamo figure aliene che si muovono all'interno del progetto, ma le stesse figure aliene non sono riconoscibili. Ad esempio abbiamo in un'immagine, stiamo parlando di foto chiaramente, no? Sì. Tanto per sì. No, perché ma l'abbiamo detto, ma insomma tanto meglio per chiarire. Ribadirlo. Sì, no. E, ad esempio in un'immagine c'è questa figura aliena che si allontana e va verso la luce, e il gioco sta nel fatto che non si capisce se questa figura va o viene dalla luce. Nel mio progetto praticamente il cambiamento, il movimento, l'azione avviene attraverso questo incontro, ma non c'è un'invasione vera e propria, perché il gioco sta nel fatto che non si capisce se siamo noi che ci stiamo allontanando o sono gli alieni che arrivano da noi. Ma che noi ci siamo forse allontanati da una dimensione, così non vorrei essere teorico, insomma, diciamo, da una dimensione in senso ampio umana. Perché è anche difficile dire questo, insomma, cosa vuol dire umano. Esatto. Ognuno ha i suoi valori, la sua etica, per cui. Però capisco cosa vuol dire. Insomma, tra parentesi, io ho dato un'occhiatina alla mostra che è già in giro. C'è una sequenza di fotografie che probabilmente ha un senso, non è un caso che ci sarà la numero 1, 2, 3, eccetera, no? Sì, sì, sì, sì, assolutamente. C'è una storia. Sì, esatto. Quindi è un concept, no? Un concept, sì. Praticamente c'è un arrivo, quindi abbiamo la prima immagine assolutamente di ispirazione alla filmografia di fantascienza, perché abbiamo questa nuvola nera che arriva sulla città, quindi come in qualsiasi film, insomma, preannuncia l'avvento, l'arrivo, e fino a che non c'è un vero e proprio atterraggio. E poi si cominciano a formare queste strutture altre che io ho ricercato in situazioni estreme, di luce estreme, in notturni, in spazi urbani e non, che appunto con certe luci, a certi orari assumevano delle forme altre. Sì, la tecnica, io tra parentesi, la maggior parte delle foto credo siano girate qui a Roma, non so, dimmi. Non solo, Europa. In Europa, bene, dimmi Europa. Un po' dove, nelle tue peregrinazioni vacanziere, oppure c'è stato proprio un... Alcune sono, tutte le immagini sono state ricercate, sì. E poi sì, per vari motivi ero in giro e quindi sì, poi ho ricercato dall'idea, insomma, ho trovato questi luoghi particolari. E non voglio dire il luogo specifico, non, perché sennò poi uno perde poi tutta quella che è la magia del progetto. Certo. Di poi ricondurre poi all'immagine un luogo, poi ti fa perdere. Anche sulla foto neanche c'è scritto, quindi neanche ci sarebbe pericolo. No, non ci deve essere scritto. No. Tra parentesi, certi posti non sono neanche molto riconoscibili, devo dire. No, assolutamente. È il bello, è forse il gioco. Anche questo è il gioco, esatto. Questa la magia, insomma, il concetto del progetto. Tipo la gestazione, l'idea, come è sorta di questa mostra? Perché ti è venuto a un certo punto lo sghiribizzo di ideare ciò? Tu ovviamente c'hai anche un background, che questo è il tuo lavoro, no? Sì. Per cui da dove viene tutta questa cosa, insomma, ecco. Questa viene, io mi occupo, oltre a lavorare nella fotografia, quindi a fare anche lavori, diciamo, più commerciali, quindi per lavoro. Matrimoni. Matrimoni, anche. Insomma, si lavora, è il lavoro certo. Poi che ti porta anche a perfezionare, a migliorare, insomma, quello che poi tu fai in arte. Parallelamente, appunto, studio delle storie. Io ho iniziato, il mio percorso è iniziato con il reportage, e poi da lì mi sono assolutamente allontanata, perché volevo che i miei progetti avessero qualcosa di mio, una chiave, una lettura, una possibilità di lettura. E il reportage comunque invece ti impronta, no, a raccontare la storia, sì, sempre con un tuo sguardo, con una tua visione, però in maniera più, insomma, reale possibile. E io invece volevo che questa mia realtà comunque mi appartenesse e quindi esprimesse qualcosa di me, parlasse anche di me. E la fantascienza, perché sono cresciuta con la fantascienza, e mio padre fin da piccola mi faceva vedere qualsiasi cosa, dal telefilm al film, insomma, e quindi per Star me Trek. È stato tutto, qualsiasi cosa. Ci siamo passati tutti. Qualsiasi cosa. E quindi, insomma, poi mi sembrava appunto mi sembrava giusto che farlo uscire adesso. Cioè, mi sembrava giusto, appunto, tirare fuori questa mia passione, questa mia passione in questo momento, insomma. Presumo anche che sia stato, penso sia, anzi, di fondamentale importanza anche il momento storico. Assolutamente. Che magari identificato come un crollo da un punto di vista delle certezze, da un altro punto di vista la mancanza di una reale alternativa al modus vivente, a quello che esiste, certo, adesso, no? E quindi la risposta è l'alternativa a questo modo di vita, che può essere, cioè, probabilmente dietro agli alieni forse c'è anche, che ne so, un'esigenza di altri valori, di altro esistere, o no? Sì, non, cioè, credo sia soltanto un escapismo così votato allo spazio, in questo senso, ma credo anche una voglia di incontro con appunto, sì, anche perché no, perché con culture diverse dalla nostra, esatto, perché la nostra, insomma, adesso sta andando sempre più verso un declino, cioè stiamo perdendo completamente di vista, come dicevi, alcuni valori, ma soprattutto quello che ci manca in questo momento è il credere in un futuro. E quindi io ho voluto dare questa chiave, ho voluto estremizzarlo, questo credo, no? Portare verso altro. Tanto si sa che qui, insomma, andiamo sempre più degenerando, quindi perché non pensare a qualcosa di altro, qualcosa che insomma, che si allontani anche dalla. Anche perché mi permetto di dire che credo che tutti noi a un certo punto ci siamo sentiti un po' alieni nelle nostre esistenze, insomma, no? Sì. Perché ha scelto di essere, di vivere una vita, un'esistenza altra. Il fatto di sentirsi alieni in mezzo agli altri, sì, a volte è anche un vivere difficile in questo senso. Sì. Perché appunto in questo senso noi ci troviamo sempre a combattere con noi stessi, con... Io sono un mutoide in realtà, sono un androide, sono un oide. Quindi sì, appunto, combattiamo sempre con siamo sempre presi da noi stessi, dal nostro combattere tutti i giorni. Ormai sono diventate anche le piccole battaglie sono diventate cose insormontabili, e quindi in un momento come questo abbiamo ancora più bisogno di unirci all'altro, quindi di creare comunque un connubio, un qualcosa che sia attraverso l'altro, cioè e attraverso l'incontro con l'altro, e anche perché da soli si sa che insomma è difficile andare avanti, no? Vuoi fare una domanda così strettamente tecnica? Chiaramente qui ci abbiamo anche, io sono un oide ma Eugenio è un accio in questo senso, ma soprattutto lui, poi se vuoi intervenire Eugenio non è un problema, chiaramente non l'abbiamo detto ma credo sia importante dirlo, abbiamo aperto la porta perché siamo in tanti, ma allora dicevo, la tecnica usata dalla nostra Francesca, come Eugenio può anche confermare, chiaramente è il digitale. Sì, assolutamente. Eugenio, confermalo. Dai, tu diciamo un po' questo aspetto del che mi piace molto, faccio analogico eccetera eccetera. Vai, buonasera, ti puoi sfogare. Buonasera a tutti. Avvicina un po' al microfono. Naturalmente non è il digitale, fortunatamente Francesca Romana per tutti i suoi progetti personali non utilizza assolutamente il digitale, e questo è anche un elemento fondamentale nel lavoro, poiché tutto quello che troverete nelle foto di Promessa Terra non ha avuto nessun ritocco di Photoshop o quant'altro, tutti gli scatti sono stati eseguiti in pellicola analogica, stampati secondo tecniche tradizionali ad ingranditore, e quindi tutte le foto sono analogiche. Mm-hmm. dallo scatto è in bianco e nero. E in bianco e nero, bianco pellicola, e nero, che è importante, pellicola questo... in bianco e nero, sì, un bellissimo bianco e nero, devo dire. E, nulla di digitale, certo. Non ci piace. Sì, si era capito, insomma. Volevo dire che il bianco e nero è fondamentale, perché appunto io in questo progetto ho lavorato molto sulle forme e sulla luce, cioè le stesse strutture che stanno all'interno del progetto emanano luce in zone completamente nere. Mm-hmm. E quindi in questo sta anche poi la simbologia del progetto, cioè è il formarsi di queste strutture che porta luce. Mm-hmm. in un immaginario completamente scuro. Mm-hmm. Chiaramente la mostra non dà un finale come una fiction, insomma, no? No, chiaramente finisce con un punto di domanda. Esatto. E appunto l'ultima immagine emblematica, perché si intravedono due mondi e non si intuisce che cosa c'è. Quindi non sappiamo in realtà che cosa si sta costruendo o che cosa si sta abbandonando. Mm-hmm. Importante è appunto l'uso, io ho messo un recinto che delimita questo nuovo mondo. Mm-hmm. Però questo recinto perché come sappiamo appunto quando si costruiscono nuovi mondi si mettono sempre dei confini, però è importante perché questo recinto non è frontale a noi ma ha una linea di fuga e quindi appunto ipotizza insomma non una chiusura. Mm-hmm. Ma una via di fuga. Bene, adesso come ho accennato prima c'è stato un incontro tra diciamo discipline artistiche, e quindi insieme al lato diciamo più prettamente dedicato alla fotografia c'è anche un lato dedicato alla musica. Come è nato questo incontro? Innanzitutto ovviamente con il qui presente Colbo il Pongide. Io devo per forza leggerlo perché ahimè dopo la 15ª volta me lo imparerò. Com'è nata questa collaborazione? Chiaramente anche tu, che non ti chiami Cobol comunque, il nome è... Cobol, così per chiarirlo, appunto Pongide sono, sì, quella biforcazione di cui parlavo prima delle scimmie. Che mentre... ti piace, sta volta la biforcazione. Mentre invece il Cobol è un linguaggio, un vecchissimo linguaggio di programmazione per, sì, macchine amministrative. Ma l'incontro è avvenuto in realtà all'interno di un altro progetto che si chiama Space Metropolis, che è stato un film girato da due antropologi registi che hanno lavorato in questo spazio sulla Prenestina, che è il Metropolis, ad una prospettiva fantascientifica. Spazio abitativo anche, soprattutto. Sì, è spazio abitativo, sì, sì. Questa prospettiva fantascientifica di lanciare appunto una serie di persone nello spazio e riconquistarsi la Luna. Una serie di persone che in realtà sulla Terra non trovano uno spazio. Io, sì, volevo dire, e quindi siamo incontrati in questa cosa, io ho collaborato in un certo modo, loro hanno collaborato in un altro, e poi alla fine sono stato invitato a, così, insomma, a dare il mio contributo invece a questa mostra, che invece è diversa secondo me, è meno, sicuramente approccia alla fantascienza, mi piace come approccia alla fantascienza, perché approccia alla fantascienza, diciamo, questa è una cosa che dicevo anche con Francesca, in realtà la fantascienza, io sono amante della fantascienza, però la fantascienza difficilmente negli ultimi anni è riuscita a tirar fuori qualcosa di intelligente, qualcosa di nuovo, a me piace quando lavora molto sulla connotazione, quindi in realtà quando anche non è così esplicita, quando si scava qualcosa nella fantascienza lì dove apparentemente la fantascienza non c'è. Quindi diciamo questo essere collaterale della fantascienza secondo me è l'aspetto più interessante e forse più innovativo nella fantascienza. Tra l'altro rispetto alla foto di cui parlava Francesco, non c'entra niente questa cosa, ma è venuta in mente prima, rispetto alla cosa che diceva, devo dirla questa cosa, che in realtà rispetto alla cosa che diceva Francesca, questa figura che si allontana o in realtà si avvicina, io te lo dico un po' sommessamente, un po' tristemente, ma l'universo è in espansione, per cui tutti ci allontaniamo da tutti, per cui è inevitabile che si allontanasse. Un messaggio di speranza, me. Okay. Messaggio assolutamente di speranza. E non niente. La sua chiave. E quindi cercherò di musicare nel mio piccolo, cercherò di musicare live questa mostra, insomma, di portare appunto il mio contributo in questo modo. Ecco, raccontaci la tua storia. Da dove vieni e come sei arrivato a concepire il tuo progetto, che poi appunto ci spiegherai meglio. Sì, ma allora da dove vengo? Vengo, allora, musicalmente vengo dalla New Wave, ne parlavamo anche prima, per, sì, cui insomma comunque la mia musica fondamentalmente è una sorta di New Wave. Anche se in realtà è suonata solo esclusivamente, almeno in questa prima fase, solo esclusivamente con giocattoli, quei giocattoli proprio che quelli che usano i bambini, tastierine, giocattolo della Kikko, della Casio, diciamo io in tutto ciò in qualche modo implemento la cosa, perché li apro, li modifico con quella pratica che si chiama circuit bending, che si tratta appunto di aprire il gioco